553. Agnello all'orientale. Dicono che la spalla dell'agnello, arrostita ed unta con burro e latte, era, e sia tuttavia, una delle più ghiotte le cornie per gli orientali, perciò io l'ho provata e ho dovuto convenire che si ottiene tanto da essa che dal cosciotto un arrosto allo spiede, tenero e delicato. Trattandosi del cosciotto, io lo preparerei in questa maniera, la quale mi sembra la più adatta. Steccatelo tutto con lardatoio di lardelli di lardone conditi con sale e pepe, ungetelo con burro e latte o con latte soltanto e salatelo a mezza cottura.